Da che io ricordi è dai tempi di Fallout 4 che non sentivo così tanto parlare di guerra atomica. Posso partire col dire che tutti gli allarmismi che circolano in questi giorni in rete, alla TV, al baretto sotto casa, sono solo stronzate senza che nessuno si senta offeso, vero? Quindi mi dispiace per te, mettiti al pipe boy e stammi a sentire perché tanto saresti morto in guerra in qualsiasi caso. Quindi, perché è più probabile che Checco Zalone faccia ridere piuttosto che la Terza Guerra Mondiale accada? Iniziamo analizzando la più grande paura di tutti al momento attuale rispetto a questa guerra, cioè la Russia, che probabilmente è dalla rivoluzione di ottobre che non la sentivo nominare così tanto. La grande madre patria di Stalin sta già combattendo innumerevoli guerre su altri fronti e di sicuro non può permettersene un'altra per proteggere l'Iran da un paese potente e con una forza militare così avanzata come gli Stati Uniti. Perciò mi dispiace per tutti noi, ma per vedere l'America spazzata via ci vorrà ancora molto tempo. Un aspetto che ancora molte persone non comprendono, ma che è di fondamentale importanza capire per poter parlare di tutto questo, è il perché l'America ha attaccato l'Iran. Per farvela semplice, in Iran in questo momento ci sono delle forti manifestazioni contro il governo. E wow, che strano, delle manifestazioni contro il governo in Medio Oriente. Chi l'avrebbe mai detto? E cosa ha fatto la patria della sanità privata e degli omicidi di massa? Ha attaccato un generale collaborazionista di tale governo. Il problema è stato che questo generale godeva, e dopo la sua morte, gode ancora di più del consenso popolare iraniano. Perciò i tempi per un'espansione americana, ulteriore espansione in realtà, verso il Medio Oriente non erano e non sono naturalmente nemmeno ora maturi, dato che era chiaramente quello l'obiettivo degli USA, di poter avere più controllo su tali terre in Medio Oriente. E chi pensa all'America come lo Stato liberatore che libererà il mondo dalle tirannie è solo un illuso che probabilmente non ha studiato la storia del mondo dagli anni 40 ad oggi. Perciò, questa situazione porterà ad un'eventuale terza guerra mondiale? Beh, sinceramente, analizzando i dati, analizzando ciò che gira intorno, dubito fortemente. E chiunque dotato di un minimo di raziocinio vi dirà la stessa cosa. D'altro canto, però, non è una situazione da prendere sotto gamba, perché comunque, in caso di guerra tra Iran e Stati Uniti, insomma, non proprio due amiconi, mettiamola così, ci sarà comunque gente che perderà la vita, perderà la casa, perderà i propri familiari, perderà i propri amici, ancora una volta per colpa di politici che giocano a chi ce l'ha più lungo, e non intendo la bomba atomica. Una situazione del genere andrà di sicuro a vantaggio delle destre nazionaliste che stanno sorgendo in Europa come nel resto del mondo, dato che più persone dovranno andare via dai propri paesi di origine, più immigrati. Più immigrati vuol dire più campagna elettorale, più odio di poveri verso altri poveri. Tutto si ridurrà a combattere un nemico che loro stessi hanno voluto creare. Oppure, come probabilmente andrà, tutto ciò si concluderà con un nulla di fatto, diventando ottimo materiale per il meme. Detto questo, io sono arrivato alla fine di questo primo episodio. Non mi resta che salutarvi e sperare di rivedervi in una prossima puntata. Cioè, oddio, non proprio rivedervi, ma sì, dai, avete capito.